Buona serata e ben ritrovati da Mirko Cavallini in studio e di Daici alla parte tecnica. Spazio serale anche oggi, anche in questo martedì 14 di febbraio, con un incontro, un evento che si è svolto recentemente nel territorio della Diocesi di Padova. Con questa sera concludiamo l'ascolto degli incontri di approfondimento sull'esortazione apostolica di Papa Francesco Evangelii Gaudium, uscire per annunciare. Gli incontri che si sono svolti in due cicli, ad ottobre nel centro parrocchiale di Carceri d'Este e a novembre al centro parrocchiale di Fellette di Romano Dezzelino. La proposta è quella del gruppo Antiochia, ufficio diocesano di pastorale della missione, Caritas diocesana, ufficio diocesano per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, ufficio diocesano di pastorale della comunicazione. Ricordando che gli altri tre incontri, anche questo, sono a disposizione sul nostro sito bluradioveneto.it, vi introduco le due relatrici della quarta serata sul tema la svolta missionaria per un nuovo stile pastorale, personale e comunitario. Sentiremo le voci di Assunta Steccanella, docente di teologia pastorale, e Barbara Marchica, dottoranda in teologia e counselor pastorale. Buonasera a tutti, lascio la parola a Barbara che si presenterà e dirà due parole su quello che è un po' il carattere del suo lavoro. Sono importanti anche se apparentemente non sono direttamente attinenti a quello che andiamo ad analizzare questa sera, ossia la svolta missionaria per uno stile di vita personale e comunitario in Evangelii Gaudium. Quindi lascio la parola a Barbara e poi mi presenterò io. Buonasera, io sono Barbara Marchica. Ho una licenza in teologia morale e sto finendo un dottorato di ricerca sul counseling pastorale. Colgo l'occasione per dirvi appunto questo aspetto che poi riguarda anche la mia professione, in quanto io sono counselor professionista e counselor pastorale, e sto lavorando su un tema abbastanza nuovo per la Chiesa italiana, che è quello appunto della relazione d'aiuto in ambito pastorale. Il counseling dunque si sposa all'interno naturalmente di una visione naturalmente antropologico-cristiana e sostiene, possiamo dirlo così, la persona nel suo percorso di fede all'interno naturalmente delle sue dinamiche di vita. Quindi il counseling ha appunto lo scopo di sostenere la persona nel suo qui e ora, quindi all'interno di dinamiche umane e nel frattempo correlate naturalmente alla dinamica pastorale. Questo ve lo dico perché poi così capirete un po' anche la mia qualità dell'intervento che ci sarà subito dopo, e vi lascio un po' anche così un po' la curiosità di capire poi che cosa si farà. Va bene, buona serata, noi ci vediamo dopo. Grazie Barbara. Io sono Assunta Steccanella, mi sento a casa nel senso che sono di Rossano Veneto, alcuni di voi che vedo qui li conosco e li ringrazio tutti della vostra presenza. Io invece sono teologa, specializzata in teologia pastorale, pastoralista si dice, ossia mi occupo di una riflessione intorno alle modalità, allo scopo, ai percorsi per trasmettere il Vangelo, per parlare di Vangelo oggi. Un grande impegno lo metto nel lavoro con i catechisti, che è una delle fasi, delle fasce principali del mio lavoro. Insegno in facoltà teologica a Padova e anche a Vicenza, e a Padova in questo periodo sto curando un corso che si occupa dei cammini di preparazione al matrimonio cristiano, ossia come accompagnare i giovani che oggi chiedono di sposarsi nel Signore. Come vedete, l'ambito della teologia pastorale è abbastanza vasto e ci interessa molto Evangelii Gaudium, perché Evangelii Gaudium è una piccola, ma non piccolissima, enciclopedia dell'evangelizzazione. Quindi questo è un tema che fa un po' da sostegno, e Papa Francesco è venuto a sostenere e a dare forza anche al nostro lavoro di pastoralisti. Io sono appunto teologa, oltre ad essere teologa, prima di essere teologa sono moglie, mamma, nonna, suocera, che dico sempre mi viene benissimo farla suocera, è proprio una roba costituzionale. E quindi la mia esperienza è un'esperienza un pochino multicolore, e capirete come questo mi aiuta a stare, mi ha fatto nascere il desiderio di trasmettere la fede ai miei figli e di cercare le parole adeguate per parlare loro di fede in un contesto nel quale parlare di fede ai giovani o in famiglia non è proprio semplicissimo. Questa sera condivido con voi l'ultimo, insieme a Barbara, l'ultimo passaggio della nostra riflessione su Evangelii Gaudium. Il percorso è stato ricco, penso di non dire qualcosa con cui non siete d'accordo, è stato un percorso ricco, articolato, in cui abbiamo cercato di farvi intravedere, non vedere, non spiegare tutto, perché Evangelii Gaudium è un testo corposo, ma di farvi intravedere le diverse dimensioni che sono implicate in questo documento, che non vorrebbe essere solo un documento da prendere e mettere lì sopra il comodino oppure in un angolo della libreria, ma vorrebbe essere un testo che un pochino anima la vita delle nostre comunità. Allora, abbiamo visto che ha un'anima biblica, ossia che il Vangelo ne è la spina dorsale fondamentale, la Sacra Scrittura è il Vangelo. Abbiamo visto che parla di una Chiesa che evangelizza con forza, che torna ad annunciare la buona novella nel suo nucleo fondante, nella seconda serata. Abbiamo visto le implicazioni etiche di questa cosa, cosa significa evangelizzare così nel rapporto con il territorio nel quale viviamo e con le situazioni marginali del territorio, che non significa marginali solo nel senso economico, ma significa riuscire a raggiungere le persone che stanno a margine. Questa sera cercheremo di fare un attimo di sintesi per vedere cosa questo chiede a noi come comunità e come singoli. Allora, io mi occupo un po' dell'aspetto più globale, Barbara toccherà l'aspetto più personale e individuale del farsi coinvolgere da Evangelii Gaudium e dalla proposta che c'è alla base di Evangelii Gaudium. E dicevamo che è un documento lungo, lunghissimo. Guardate che prima di Amoris Laetitia era il documento più lungo nell'intera storia delle encicliche e delle esortazioni apostoliche dei pontefici. Ed è una piccola enciclopedia dell'evangelizzazione. Cosa si cerca in un'enciclopedia di solito? Beh, a parte che i nostri giovani adesso non sanno più che cos'è l'enciclopedia, nel senso che c'è Google e c'è Wikipedia e quindi l'enciclopedia è un pochino sparita. Ma quelli che c'è qualcuno che ha più o meno la mia età qui dentro, no? Quelli che hanno più o meno la mia età ricordano le lunghe ricerche in biblioteca per fare le ricerche per la maestra o per i professori, che quando ti chiedevano una ricerca, a me che abitavo in un paesino disperso nella valle del Chiampo e che per andare in biblioteca dovevo farmi 10 km in bus, mi veniva da piangere. Si andava in biblioteca, si prendeva l'enciclopedia e si cercava nell'enciclopedia la voce che ci interessava. Bene, un pochino così è anche Evangelii Gaudium, che ci dà degli stimoli diversi, parla di cose apparentemente diverse tra loro, perché per esempio dedica 25 numeri all'omelia, e uno dice che mi interessa a me dell'omelia, però è un'enciclopedia dell'evangelizzazione e per questo mette in primo piano l'importanza di quel momento bellissimo che c'è dentro la celebrazione eucaristica, che è il momento nel quale i nostri preti condividono con noi il significato della parola di Dio. Allora, un'enciclopedia dell'evangelizzazione composta di 5 capitoli che sviluppa e attualizza due grandi testi, che sono Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II e Evangelii Nuntiandi di Paolo VI. Pensate, Evangelii Nuntiandi, testo sulla evangelizzazione di Paolo VI, Gaudium et Spes, Evangelii Gaudium, Gaudium et Spes, il testo del Vaticano II. Questo ve lo dico non per un'erudizione, ma perché dobbiamo riconoscere che questo testo è un testo che si radica nella tradizione della Chiesa e che cerca di fare in modo che questa tradizione diventi viva nella nostra storia locale. Allora, dice però Papa Francesco che non ignora che tutti i documenti non destano lo stesso interesse che in altre epoche, lo sa che questo testo qua rischia di venire dimenticato e lasciato nell'angolo di una libreria, però vuole che le comunità lavorino per mettersi nel cammino di una conversione pastorale e missionaria che non può lasciare le cose come stanno. E già qua emerge quella cosa scomoda che fa Evangelii Gaudium, scomodissima. Ci chiede una conversione nelle nostre comunità, ossia ci chiede di smetterla di pensare che in fondo si è sempre fatto così e che ogni cambiamento sia negativo. Perché guardate, la resistenza al cambiamento, soprattutto nelle nostre comunità solide, stabilite da tanto tempo, in cui le cose vanno avanti con una certa dinamica da tantissimi anni, la resistenza al cambiamento è fortissima. Questo non significa neanche che sia necessario cambiare le strutture così come sono. Vedremo questa sera dove si situa questo cambiamento, in un posticino un poco più antipatico del consiglio pastorale o dell'organizzazione di una parrocchia, ma di questo parleremo dopo. Alla fine, che cos'è allora Evangelii Gaudium? Evangelii Gaudium è un testo di ecclesiologia, ossia è un testo che dice chi è la Chiesa. Quella cosa che vedete lì è una word cloud. La word cloud è una costruzione grafica strutturata dando una dimensione diversa alle parole a seconda delle volte in cui sono usate. C'è un programmino in internet, metti dentro un testo, analizza il testo, prende le 152 parole più utilizzate nel testo e le riporta a dimensioni più grandi quante più volte sono utilizzate. È chiaro? Allora, Evangelii Gaudium dice che siamo tutti una Chiesa, gioia di Dio che è la nostra vita. È una sintesi magari così estemporanea, però è molto bella. Chiesa, tutti una Chiesa, una è facile che sia la parola più utilizzata perché è un articolo, ma Chiesa, guardate com'è quella parola, quanto grande, e tutti ne facciamo parte e la costituiamo. È un testo nel quale la Chiesa viene riproposta nella sua natura più profonda, e ci dice questo testo che è inutile brontolare dei preti e dei vescovi e del Papa che la Chiesa dovria fare, perché la Chiesa siamo tutti noi e perché di questa Chiesa tutti noi abbiamo responsabilità. È un testo che nasce ha una duplice radice. Fa il punto sul sinodo del 2012 sulla nuova evangelizzazione, quindi il suo tema qual è? Trasmettere il Vangelo. E nello stesso tempo è un testo che dà un programma per il pontificato di Papa Francesco. È un testo che va oltre le proposizioni del sinodo del 2012, è un testo che ci dice come Papa Francesco vuole la sua Chiesa. Ed è interessante questa cosa, perché guardate che Papa Francesco in questo testo fa un'altra cosa assolutamente originale, ossia cita tutte le conferenze episcopali del mondo, quasi, cita conferenze episcopali da tutto il mondo, da quasi tutto il mondo. Per esempio, manca un paese che forse abbiamo sentito nominare qualche volta, non c'è la conferenza episcopale italiana. Io due domande me le farei se fossi uno dei vescovi della conferenza episcopale italiana, ma lasciamo stare. Comunque, questa cosa che metto lì come una battuta, però è interessante che il Papa, per scrivere un testo che è programma del suo pontificato, fa appello alle parole dei vescovi di tutto il mondo. E allora ci dice che la Chiesa non è lui, che lui quello che dice lo dice in ascolto della Chiesa di tutto il mondo. Un testo quindi che ci dice che la Chiesa è qualcosa di più di un monolite, è una realtà di persone animata dallo Spirito, con all'interno una struttura gerarchica, ma che la struttura gerarchica non è il tutto della Chiesa, e che comunque anche nelle rappresentanze istituzionali il lavoro si fa insieme collegialmente, dialogando e ascoltandosi. Qual è lo scopo di questa esortazione? Dice l'esortazione che Papa Francesco vuole invitarci a una nuova tappa evangelizzatrice per il cammino della Chiesa nei prossimi anni. Una nuova tappa evangelizzatrice. Cosa significa? Che c'è bisogno di predicare un Vangelo nuovo? No. Significa che i tempi nei quali ci troviamo segnano una tappa importante e che noi dobbiamo trovare le modalità per dire e ridire il Vangelo di sempre nel modo adatto al nostro tempo. Guardate che dice al numero 116 Evangelii Gaudium, che è citata lì sotto: in questi due millenni di cristianesimo innumerevoli popoli hanno ricevuto la grazia della fede, l'hanno fatta fiorire nella loro vita quotidiana e l'hanno trasmessa secondo le modalità culturali loro proprie. Su questa cosa Don Gaetano ci potrebbe aiutare tanto, perché lui che gira il mondo per vedere i missionari che stanno al servizio dei popoli più lontani, Potrebbe raccontarci come il Vangelo in ogni cultura assume un suo volto e come non sia necessario che ci sia la struttura che noi conosciamo così bene perché il Vangelo venga annunciato e comunicato. Solo che di questa cosa noi facciamo fatica a renderci conto e di solito cerchiamo il bene guardando al passato. Cerchiamo il meglio dicendo un tempo le cose andavano meglio, c'era più gente che veniva a messa, i bambini a catechismo non rompevano le scatole, le cose funzionavano meglio di adesso. Adesso i giovani vanno a convivere prima di sposarsi, poi vanno a fare la comunione, anche se convivono è un disastro. La conosciamo questa litania, no? Non solo la sentiamo nelle nostre parrocchie, ma ne siamo protagonisti. Dice Papa Francesco che innumerevoli popoli hanno ricevuto la grazia della fede e l'hanno fatta fiorire secondo le modalità culturali loro proprie. E allora dov'è il problema? Il problema è che noi dobbiamo far fiorire il Vangelo secondo le modalità culturali nostre, proprie di questo nostro tempo. Questa cosa passa attraverso una conversione fondamentale, che è quella del modo di comunicare il messaggio, del linguaggio. Guardate che Papa Francesco, che una volta ho sentito una signora dire, c'era una grande protesta, non mi ricordo più per quale degli infiniti motivi per cui normalmente c'è una parte anche interna alla Chiesa che dà addosso a Papa Francesco perché farebbe saltare per aria cose che si ritiene che non dovrebbe far saltare. No, non discutiamo qui del pontificato di Papa Francesco. Io ho sentito una signora uscire da un incontro come questi dicendo: ai puoi dire quel chi vuoi, ma mi sto Papa qua lo capisco. Possono dire quello che vogliono, ma io questo Papa lo capisco. Cosa ha fatto Papa Francesco? Dice il Vangelo con categorie che le persone comprendono, perché lui è ben consapevole di un fenomeno, di un fenomeno di cui invece noi non siamo spesso molto consapevoli, che è il fatto che le parole nostre della fede si sono svuotate di significato. Le diciamo, e diciamo le cose in modo corretto, ma se qualcuno ci dicesse e cosa significa nella mia vita di me che domani mattina vado a lavorare, facciamo fatica a dare la spiegazione. Io vorrei chiedere a ciascuno di voi che mi dicesse che cos'è salvezza, cosa significa salvezza. E sono sicura che tutti avete una risposta, ma la domanda è: questa risposta che io ho è in grado di convincere un ragazzo di 15 anni che vale la pena camminare verso questa salvezza? Se sì, benissimo, avete fatto un'operazione linguistica che aiuta a comunicare con un ragazzo di 15 anni. Ma se per esempio salvezza fosse quello che mi ha risposto una volta una signora, salvezza vuol dire che siamo salvati dai nostri peccati? E per un ragazzo di 15 anni sta roba qua cosa vuol dire? Per lui che domani mattina va a scuola e che ha il compito di matematica e non ha studiato, cosa vuol dire? Allora capite che questa cosa chiede di ripensare il linguaggio per far uscire la nostra comunicazione dalla trappola dell'abitudine. E questa è la prima conversione grande che ci chiede Papa Francesco. Poi, quanto tempo ho ancora? Avete un altro quarto d'ora? Ok. L'altra cosa importante poi in questa esortazione è il fatto che Papa Francesco vede il mondo in quel modo lì, come un poliedro. Cos'è un poliedro? È una figura geometrica che è fatta di tante facce diverse che stanno insieme in modo fantasioso. Se voi andate a guardare sempre in Google poliedro, beh, io ho scelto quello che rappresentava più il cerchio che assomigliava al mondo, ma un poliedro può avere le forme più strane e inimmaginabili. Il mondo è un poliedro dove non c'è un solo centro, ci sono tanti centri diversi e bisogna saper stare in questa realtà così multipolare con un atteggiamento di base che è un atteggiamento che dovremmo curare e coltivare tutti quanti, ed è l'atteggiamento della misericordia. Allora, l'altra volta avete visto, la volta scorsa avete visto che la misericordia è chiave del dialogo e che il dialogo è qualcosa che va sviluppato con tutte le componenti che abbiamo intorno dal punto di vista ecclesiale e personale. È questa seconda dimensione, la preziosità del conoscerci come amati da Dio, come dono di Dio, come capaci di ascoltare i fratelli e di parlare ai fratelli, come in ricerca di incontrare i fratelli. Questa seconda dimensione personale, che è quella che sarà lo scopo del nostro, della seconda parte del nostro incontro. Ma in tutto questo, perché dobbiamo dialogare con gli altri? Perché il dialogo, la misericordia verso l'altro, l'accoglienza, la considerazione della complessità di un mondo poliedrico, il dialogo, perché? Perché, dice Papa Francesco, siamo missionari. Qui siamo ospitati in particolare, ci ha aiutato a sviluppare questo nostro progetto il Centro Missionario Diocesano insieme ad altri uffici della diocesi, no? Ma noi dobbiamo uscire dalla trappola per la quale la missione viene considerata solo quello che fanno loro, ossia uscire da qua fisicamente, prendere l'aereo e andare in un paese lontano a portare il Vangelo a popoli che non l'hanno mai sentito. In realtà quello che c'è detto in Evangelii Gaudium è che dobbiamo riscoprire il fatto che l'attività missionaria è la massima sfida per la Chiesa, la prima causa nella quale la Chiesa si deve impegnare, perché è il paradigma di ogni opera di Chiesa. Cosa significa questa cosa qua? Vuol dire che tutti quanti domani mattina dobbiamo andare a telefonare a Don Gaetano e dirgli veniamo tutti quanti in Africa, perché se vogliamo essere cristiani ed ecclesiali dobbiamo essere tutti quanti missionari. Sì, ma non proprio così. Dobbiamo tornare a recuperare il significato autentico della parola missione. La missione è qualcosa che riguarda la Chiesa nella sua essenza più intima. Perché? Com'è nata la Chiesa? Com'è nata la Chiesa? Ve lo ricordate? A Pentecoste è nata la Chiesa. C'erano 12 persone singole che si trovavano, 12, non è detto che fossero solo 12, c'erano dei discepoli in un posto con le porte chiuse. E stavano dentro là, ciascuno pregando, vivendo bene, volendosi bene, ma chiusi e individualmente all'interno di un posto, dove a un certo punto Dio è andato in missione. Eh sì, perché Dio è uscito da se stesso in Gesù Cristo e poi a Pentecoste è uscito da se stesso nello Spirito Santo ed è andato a trovare quelle persone lì. E la missione di Dio, il fatto che Dio si è riversato in quelle persone lì, ha cambiato le cose in modo radicale. Non sono più stati 12 persone singole, ma sono diventati un tutti. Hanno spalancato le porte e sono usciti. E che cosa sono usciti a fare? Ad annunciare Gesù Cristo morto e risorto per noi. Ve lo ricordate il secondo incontro con Manuel che parlava del kerigma, no? Ad annunciare Gesù Cristo morto e risorto per noi. Da quel momento lì la Chiesa è nata. Ma è interessante questa cosa, perché se non fosse successo la Chiesa non ci sarebbe, ok, bene, ma se non succedesse ancora ogni giorno la Chiesa morirebbe, perché se noi non continuassimo ad annunciare Gesù la Chiesa finirebbe. Se non ci fosse testimonianza e trasmissione della fede, la Chiesa non avrebbe futuro. La missione, ossia lo spirito che ci anima e ci chiama ad annunciare il Vangelo, è essenziale per la Chiesa, genetica, è la sua circolazione sanguigna, è il suo cuore che batte, mettetela come volete, trovate tutte le immagini biologiche che vi sono più care. È coessenziale alla Chiesa, rende la Chiesa viva, la rende capace di camminare nella storia. E quindi ciascuno di noi deve riscoprire il protagonismo proprio di questo essere parte della Chiesa, ma non parte passiva, parte attiva, chiamata ad annunciare il Vangelo ogni giorno con la propria vita, nelle condizioni in cui si trova, di lavoro, di famiglia, di scuola, di parrocchia, tutte le condizioni in cui viviamo. Questa è la svolta missionaria della Chiesa, che poi si traduce anche per qualcuno che riceve una chiamata particolarmente forte in una vocazione come quella di andare ad essere missionario in condizioni che non sono le nostre, dove non ci sono non c'è la condivisione che c'è qui, dove la gente non è credente, o per aiutare in tutti i modi in cui uno può decidere di andare in terra di missione, si chiama teologicamente missione ad gentes. Ma quello che conta è che la missione deve svilupparsi qui, ed è a questo che si chiama Evangelii Gaudium. Ci chiama ad una sfida in cui lo Spirito Santo è coprotagonista insieme a noi. A questa sfida, sapete, si può anche decidere di non rispondere. Lo Spirito lo riceviamo tutti perché nei sacramenti viene da tutti, ma si può anche decidere di chiudere la porta, si può anche decidere di non impegnarsi. Ma decidere di non impegnarsi significa volere che la Chiesa muoia. E guardate che questo dovrebbe metterci nella condizione di smetterla di dire: ma tanto i genitori di Tosetti non gli interessa niente, ci portano i bambini solo perché li badiamo. Oppure: ma tanto cosa vuoi andare a predicare, a fare quegli incontri là di predicazione che tanto non viene nessuno? Ma tanto cosa vuoi che facciamo quell'attività là perché tanto vengono sempre i soliti? Non funziona così. Non funziona così, perché le opere non sono opera nostra, ma sono opera nostra animati dallo Spirito, e siamo chiamati a far avvenire la Chiesa ogni giorno. Perché anche oggi la Chiesa avviene dove un credente comunica a qualcun altro la sua fede in Gesù Signore e Cristo, crocifisso e risorto, speranza di salvezza. È un atto missionario, è l'atto missionario per eccellenza, che è capace di trasformare la vita sia di chi lo compie che di chi lo riceve. E per questo ci sono infinite occasioni nella nostra vita, ma bisogna prendere sul serio questa chiamata personale che ci chiede di metterci in gioco nella pienezza di noi stessi. Ci chiede di metterci in gioco autenticamente, perché siamo soggetti attivi dell'evangelizzazione, con funzioni diverse, sì, con carismi diversi, sì. Ci sono i presbiteri, ci sono i laici, ci sono i religiosi e le religiose, ci sono i coniugati, ci sono i celibi, ci sono i giovani, ci sono gli anziani, ci sono quelli che hanno il carisma di essere nonni e di trasmettere la fede ai loro nipotini, ci sono infiniti carismi nella nostra Chiesa. Ma ciascuno, in questo dinamismo missionario, è prezioso e insostituibile. Non c'è nessuno di noi che potrebbe non essere missionario, perché siamo stati chiamati qui e ciascuno di noi è prezioso e insostituibile in questa sua vocazione, che è la vocazione di comunicare speranza alla terra. La vocazione di comunicare speranza alla terra. Allora, questa cosa significa essere Chiesa in uscita. Chiesa in uscita non vuol dire solo o tanto spostarsi da un luogo all'altro, ma vuol dire prima di tutto spalancare le porte all'azione dello Spirito Santo nella nostra vita, e quindi consentirci di considerare di poter uscire da quelle che sono le nostre abitudini, di poter uscire da quelle cose che ci fanno sentire sicuri, per aprirci al dialogo anche con chi magari ci mette in crisi, per aprirci al dialogo con chi non la pensa come noi, per aprirci ad andare vicino o d'incontro a chi è scomodo. Questo è il primo livello della Chiesa in uscita. E Papa Francesco dice che questa Chiesa in uscita crea una comunità di discepoli missionari che hanno 5 caratteristiche. Siamo nel primo capitolo di Evangelii Gaudium, dice così: prendono l'iniziativa, si coinvolgono, accompagnano, fruttificano e festeggiano. Tante volte l'avete sentito dire a Papa Francesco che i musi lunghi, i cristiani con la faccia da Quaresima invece che Pasqua, lui non li vuole, no? Ma c'è un bellissimo passaggio, credo che sia il numero 276 di Evangelii Gaudium, non l'ho riportato, però ve lo dico a memoria. C'è un bellissimo passaggio nel quale Papa Francesco descrive perché i discepoli che hanno fatto questo percorso hanno preso l'iniziativa, hanno detto: beh, sta roba qua non va bene, decido di mettermi a fare qualcosa insieme con un'altra persona, insieme col mio parroco, insieme con un'altra catechista, con un altro rappresentante del consiglio pastorale, per vedere se riusciamo a cambiare le cose in qualche modo. E ci si mette dentro tutto, si coinvolgono, accompagnano pazientemente e portano frutti. Dice Papa Francesco che questi frutti sono la radice della gioia del Vangelo, perché è la percezione che il Vangelo nella nostra vita è fecondo, e che quindi la nostra vita nel Vangelo è feconda per la vita degli altri. È la percezione che diventiamo generatori di vita, e questa è la conversione pastorale che ci viene richiesta. Allora, una conversione missionaria che riguarda prima di tutto ciascuno come credente. Io credo che Leopoldo non c'era la volta scorsa, ma credo che Leopoldo vi abbia parlato di quei quattro principi dell'evangelizzazione di cui parla Papa Francesco, no? Io credo che dovremmo sempre ricordare quello fondamentale, che è il tempo è superiore allo spazio, ossia che ci dice come sia importante non fare le cose aspettandosi di vedere un risultato, ma fare le cose iniziando processi. Io pongo un gesto, prendo l'iniziativa, pongo un gesto che magari non avrà risultato subito, ma che smuove come un sasso in uno stagno, smuove l'acqua in cerchi concentrici e che porterà con sé dei risultati. Allora, questo atteggiamento di base è l'atteggiamento missionario che le nostre comunità devono scoprire comunitariamente. Penso ai consigli pastorali, penso ai gruppi che collaborano col parroco per qualunque tipo di attività. Mettersi in questa logica di prendere l'iniziativa e iniziare processi per continuare giorno dopo giorno ad annunciare il Vangelo e farlo giungere anche a chi crede di averlo già incontrato, ma in realtà forse ne ha incontrato una visione un po' ingessata e un po' stantia che non coinvolge più la sua vita. Su questa strada, a cui sono chiamate le nostre comunità, adesso vedremo come possiamo incamminarci singolarmente e personalmente. Grazie. Io vorrei vedere con voi la seconda parte del sottotitolo. Abbiamo visto la svolta missionaria, in che cosa consiste. Io con voi vorrei vedere per uno stile di vita personale comunitario. Cosa si intende con questo stile di vita comunitario, ma in primis personale? Premetto già che il tema è molto ampio, perché quando entriamo sulla dinamica personale voi capite che ci sarebbero tante parole da spendere e una riflessione molto ampia. Io tenterò, no, una sintesi di alcuni passaggi fondamentali, poi nel momento in cui c'è anche lo spazio delle domande può essere che possiamo riprendere qualche cosa e approfondirla. Che cos'è lo stile? Parliamo di stile appunto personale e comunitario. Io vorrei partire da questa riflessione: ma che cosa vuol dire avere uno stile? E allora ho fatto ricorso al dizionario Garzanti online questa volta, però almeno il dizionario Garzanti, va bene, online, che dà alcune riflessioni sul concetto di stile. Noi a volte utilizziamo delle parole automaticamente senza renderci conto della portata di quello che stiamo dicendo, perché le conosciamo, perché diamo un valore, la lingua, no, automaticamente rimanda a un significato. Il dizionario ci dice in primis che lo stile è la particolare forma in cui si concretizza l'espressione letteraria o artistica che è propria di un autore, di un'epoca, di un genere. Alcuni esempi ci fanno capire, no? Lo stile di Dante, di Michelangelo, di Beethoven. Intuiamo che cos'è lo stile, allora. Secondo passaggio, il dizionario ci dice un modo abituale di essere, di comportarsi, di esprimersi. Quindi lo stile dice, no, con degli esempi, avere uno stile impeccabile è nel suo stile agire così. Ci dice qualcosa in più, ci dice che lo stile è dunque un modo di comportarsi, un modo, noi vedremo, di relazionare, di stare. Ultimo aspetto è eleganza, signorilità, distinzione, lo utilizziamo noi, vestire con stile, avere stile, una persona senza stile. Quindi ci dice appunto che lo stile è qualcosa che dice di noi, che dice di noi. Non è una cosa da poco, eh? È qualcosa che ci chiama in causa. Ma esiste allora anche uno stile cristiano? Perché noi stiamo facendo una riflessione in questo ambito. Ebbene sì, c'è uno stile anche per quanto riguarda il cristiano, che non è una cosa da poco, perché significa profondamente mettere in relazione quella che è la mia adesione a un Vangelo a livello teorico e poi quello che mi viene chiesto dal Vangelo, che è un'adesione pratica. E guardate che qui ci giochiamo tutto, perché il cristianesimo non è un'ideologia, perché il cristianesimo non è una bella adesione a dei bei valori possiamo condividere chi più chi meno. Cioè, profondamente il cristianesimo è una pratica di vita. Ti chiede una pratica di vita. E qua cominciano i problemi. E qua cominciano i problemi perché io mi scontro col fatto che la teoria va in un modo, ma poi la mia vita, con le sue complicazioni, con le dinamiche umane, psicologiche e spirituali, con a volte, purtroppo, ma lo conosciamo tutti, il dramma della vita, che prevede anche la dinamica della sofferenza, allora qui le cose si complicano un pochino. E il documento ci richiama a uno stile personale importantissimo. Ed è interessante perché, riagganciandoci appunto ai Vangeli Gaudium, il Papa lo dice molto chiaramente. Gesù vuole evangelizzatori che annuncino la buona notizia non solo con le parole, ma soprattutto con una vita trasfigurata dalla presenza di Dio. È molto bella questa immagine della trasfigurazione. Sono chiamato a trasfigurare la mia vita alla luce del Vangelo, e questa trasfigurazione deve avere un carattere pratico, concreto, nelle relazioni con l'altro, nelle relazioni con Dio, nella relazione con me stesso. Vi ricordo che il comandamento centrale a cui Gesù ci richiama è il comandamento dell'amore. Gesù stesso dirà, tutta la legge la possiamo riassumere nel comandamento centrale: ama Dio con tutto te stesso e ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi in realtà apparentemente sono due comandamenti, in realtà sono tre, no? C'è Dio, l'altro e me stesso. E voi capite che la questione si complica un pochino. Quindi lo stile del cristiano è uno stile che tenga unito vita e fede. Perché questa trasfigurazione è possibile nel momento in cui, no, non si creano scissioni, ma c'è un'unità tra la mia vita e la fede. E quindi Vangeli Gaudium ci richiama molto a questo aspetto fondamentale, che non dobbiamo tralasciare. E in modo ancora più chiaro ce lo dice Paolo quando si rivolge alla comunità di Efeso, in cui lui chiaramente dice che questa pratica è necessaria e fondamentale. Cioè, ricorda alla comunità cristiana che questo è vivere il Vangelo, e siamo chiamati tutti naturalmente a trasfigurarci in questa direzione. Molto bello perché Paolo qua utilizza, no, due aspetti interessanti. Il primo è: scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza, con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Qui Paolo chiama in causa una scelta del soggetto. La persona deve scegliere. Deve scomparire, dice Paolo, e scegliete la benevolenza. Potremmo dire che proprio la lettera agli Efesini ci sottolinea lo stile, potremmo dire per eccellenza, del cristiano, che è lo stile della benevolenza. Vorrei fare con voi un ulteriore passaggio. Se allora appunto lo stile del cristiano è lo stile della benevolenza, sorgono tre domande. La prima è: che cos'è effettivamente questa benevolenza? Cioè, cos'è questa benevolenza? La seconda domanda che mi viene è: come vivere questa benevolenza? Cioè, come praticamente nelle mie relazioni sono chiamato a viverla? E tre: quali benefici ne ho a vivere in questo modo? Perché se io non so quali sono i miei benefici, non muovo neanche un mio desiderio ad agire in quella direzione. È molto importante rintracciare qual è la direzione che io voglio raggiungere, perché evidentemente qualcosa di importante ne va di me. Allora, con voi vorrei vedere questo primo aspetto. Scegliere la benevolenza cristiana, no? Scegliere la benevolenza cristiana vuol dire in primis porsi la domanda, appunto, che cos'è questa benevolenza cristiana. E ancora qua Evangelii Gaudium ci aiuta. In primis possiamo dire che la benevolenza cristiana in primis è il fare esperienza dell'amore di Dio che noi abbiamo ricevuto. È l'esperienza personale che ognuno di noi fa nell'incontro con Dio. Esperienza di amore, di essere accolto così come sono, con le mie qualità e con i miei difetti, da Dio. Esperienza che il cristiano vive ogni volta e che rintraccia ogni volta, soprattutto nel sacramento della riconciliazione. Quando tu sei perdonato, no? Incondizionatamente. E un mese o due mesi prima avevi promesso che non saresti ricaduto in quella cosa. E tu scopri che questo Dio è disposto ad accoglierti così come sei. E lì si fa esperienza di questo amore. Allora la benevolenza è qualcosa che noi in qualche modo prima riceviamo, come in una forma passiva, riceviamo l'amore di Dio, lo viviamo, ci sentiamo accolti e amati così come siamo, per poter poi automaticamente essere benevoli verso di noi e verso gli altri. Ma in primis l'esperienza è quella che viene da Dio. Come vivere la benevolenza nelle nostre relazioni? In modo sintetico, Francesco sottolinea un aspetto molto pericoloso che ci appartiene, che è la dinamica molto pericolosa, per cui dobbiamo stare veramente attenti, che è la dinamica del giudizio. Noi tendenzialmente comunichiamo giudicando. Faccio degli esempi così voi adesso poi annuite. In questa famiglia non mi capisce nessuno. Tu non mi ascolti. Noi tendiamo a comunicare giudicando. Ci hanno insegnato così, non è colpa nostra, no? Cioè, è una forma educativa, ma in qualche modo, se possiamo, tendiamo al giudizio. Al giudizio sugli altri e al giudizio su di noi. La dinamica del giudizio è molto pericolosa perché crea, no, separazione, crea automaticamente difesa, genera quello che addirittura i padri della Chiesa, no, avevano già intracciato, che è il pensiero negativo. E il pensiero negativo genera pensiero negativo. Per cui addirittura i padri della Chiesa, profondi conoscitori di sé, dicevano: bisogna stare attenti al pensiero negativo perché genera altro pensiero negativo. I padri della Chiesa dicevano: generano vortici. La psicologia moderna arriverà a dire: genera ansia, cosa che ne conosciamo. Quindi il giudizio, sottolinea Francesco, è molto, no, pericoloso. Dobbiamo stare attenti a depurare, no, le nostre comunità, ma in primis naturalmente noi stessi, dalla dinamica del giudizio. Gesù stesso dice: non giudicate dalle apparenze. Perché noi tendiamo a giudicare, qua spendo una parola velocemente, ma noi da un punto di vista proprio psicologico tendiamo ai pensieri negativi. Noi da un punto proprio di vista psicologico tendiamo a vedere le cose, siamo bravissimi a vedere le cose che non vanno. Quindi da un punto di vista proprio, mi verrebbe da dire, psicologico, quasi ontologico, siamo fatti così, tendiamo a vedere le cose che non vanno, a vedere il bicchiere mezzo vuoto. Poi per fortuna biologicamente invece siamo per la vita, istinto di sopravvivenza, no? Basta che ci sia un raggio di sole, io parlo perché vengo da Milano, non lo vedo mai il sole, no? Basta che ci sia un raggio di sole, automaticamente ti sembra già di essere a primavera. Cioè, da un punto di vista biologico siamo per la vita, da un punto di vista psicologico teniamo i pensieri negativi. Se volete fare esperienza dei vostri pensieri negativi, vi do questa pratica, no? Molto semplice. Provate a osservare la quantità di pensieri negativi che vi viene mettendovi alla guida. Una sorta di pensieri negativi a raffica inondano la vostra mente, no? Io ho imparato a vedere i miei pensieri negativi e a benedire poi, no? Gli automobilisti, ma anche i pedoni, no? Vedi i miei pensieri negativi e poi benedico, va bene, no? Quindi mi sembra di compensare, no, il mio pensiero negativo. Ma sono pensieri automatici, negativi. Quindi è bene sapere quali sono delle dinamiche psicologiche che noi incontriamo. E in questo caso Francesco lo dice: attenzione, perché il pensiero negativo può veramente causare un senso di pesantezza, di negatività. E noi sappiamo come a volte il pensiero negativo poi può generare, no, quel pettegolezzo che può essere poi a volte la rovina di tantissime famiglie, se non anche di comunità cristiane. Quindi il pensiero ovviamente giudicante è pericoloso. Poi riprende tre passaggi centrali che io vi ho riportato qua, perché mi sembra necessario per capire in che direzione io sono chiamato a vivere quella benevolenza. Cioè, capito che quella benevolenza, ne ho fatto esperienza a partire da Dio e sono chiamato quindi a viverla, ma in che dinamica? E qua tre passaggi centrali. Il primo è: vivete in pace con tutti, se possibile, per quanto dipende da voi. Siamo anche esortati a cercare di vincere il male con il bene, senza stancarci di fare il bene. Questi richiami potremmo riassumerli in tre punti, no? Come vivere la benevolenza: evitare il male, evitare il male, scegliere di fare il bene, quindi continuare a stare nella dinamica del bene, anche se a volte il bene mi sembra di averne già fatto, ma sono già stato buono. No, continuo a fare il bene. E l'altra dinamica la potremmo tradurre in un linguaggio più spirituale, no? Con continua a purificare il cuore. Continua a purificarti. Continua a stare nella dimensione, no, della luce, della parola. Quindi tre passaggi che ci aiutano a capire, no, come questa benevolenza poi deve essere declinata. Vediamo che qua emerge già un aspetto che è stato anticipato prima, che è quello del soggetto che è chiamato a decidere, a prendersi seriamente in considerazione. Perché vedremo, il Vangelo ti chiede di essere protagonista della tua vita e dunque della tua fede. Ultimo passaggio: quali benefici si ottengono allora a vivere la benevolenza cristiana? Perché se io non ho un tornaconto non faccio niente, no? Profondamente noi siamo chiamati a, la nostra dinamica umana è che deve esserci qualcosa in gioco. Cioè, lo studente non studia perché deve studiare, quello capirà, no? Ma lo studente studia perché in gioco c'è la promozione, allora studio, poi capirò perché devo studiare. E automaticamente io devo cogliere quali sono quei benefici. Perché vivere in questo modo è per me edificante? Ed è molto bello il testo, perché appunto Francesco indica come la benevolenza sia la chiave della fecondità. Sono chiamato nella mia vita a essere fecondo, e la fecondità può essere vista e espressa in molteplici modi. Sono chiamato a essere strumento di bene. Tale fecondità, dice Francesco, molte volte è invisibile, inafferrabile e non può essere contabilizzata. Uno è ben consapevole che la sua vita darà frutto, ma senza pretendere di sapere come, né dove, né quando. Ha la sicurezza che non va perduta nessuna delle sue opere svolte con amore. Non va perduta nessuna delle sue sincere preoccupazioni per gli altri. Non va perduto nessun atto d'amore per Dio, non va perduta nessuna generosa fatica, non va perduta nessuna dolorosa pazienza. Tutto ciò circola attraverso il mondo come una forza di vita. La benevolenza genera altra benevolenza. Sono chiamato a stare in questa dinamica di benevolenza perché automaticamente io stesso poi respiro questa logica di benevolenza, di bene. Detto così, sembra abbastanza facile, ma questa è la domanda che, insomma, ci provoca, no? Detto così, vista la teoria, fantastico, qual è il problema? Aderiamo tutti, no? In modo entusiastico e deciso. Ma allora perché è difficile vivere lo stile personale, no? Offerto dal Vangelo? Perché è difficile? E qua ritorniamo a una domanda che è una domanda che potremmo definire esistenziale, ontologica, cioè che riguarda proprio la persona nella sua dimensione di essere. Qua il Vangelo va a toccare una questione profonda, perché il Vangelo ti chiede, come vi ho anticipato prima, di essere protagonista della tua vita, non spettatore, protagonista. Pertanto di essere protagonista anche della tua fede. Dio non si sostituisce a nessuno. A noi piacerebbe che qualcuno si sostituisse, prendesse delle decisioni, no? E io rimango un attimo a guardare la famosa domanda che più volte lo troviamo, no? Anche il giovane ricco: cosa devo fare? Cosa devo fare? Questa è la domanda che noi ogni tanto ci poniamo. Ma io cosa devo fare? Ma nessuno si sostituisce a te, neanche Dio. Nella sua grandezza di Dio, no? Rispetta la tua volontà. E qui capite che entriamo in una questione non da poco, perché è la questione esistenziale, antropologica. L'essere protagonista della mia vita e di conseguenza della mia fede significa profondamente rispondere alla domanda: chi sono io? E la domanda chi sono io è una domanda esistenziale a cui io non trovo una risposta una volta sola nella mia vita, ma è una domanda che continuamente mi accompagnerà, esistenziale proprio per quello, e a cui io darò diversi significati in base alle stagioni della mia vita. Ma noi stare in questa tensione non ci piace tanto. Noi vorremmo avere la chiarezza di sapere, di avere sotto controllo tutto della nostra vita. C'è qualcuno che sorride, va bene, ma è inevitabile. Invece il Vangelo ti dice: devi stare in questa tensione, nella tensione tra ciò che tu sai già di te e ciò che non sai ancora. E nello stesso tempo il Vangelo ti chiede di scegliere e dunque di essere protagonista, non spettatore. La domanda chi sono io, voi capite che è una domanda impegnativa, perché noi molte volte tendiamo a essere fuori da noi stessi e non in contatto con noi stessi. Certo, occuparmi di me mi chiede in qualche modo uno scegliere e di conseguenza un essere in contatto con me, e molte volte non è facile. Dice un teologo contemporaneo, Romano Guardini, che devo accettare il fatto profondamente, questa è la questione, che io non ho scelto, non mi sono scelto, mi è stato assegnato l'essere me stesso. Certo, mi è stato assegnato da Dio, no? Ma io non ho scelto questa cosa, mi viene data. E mi viene dato come un compito, forse il compito più impegnativo che ho nella mia vita: essere me stesso e voler davvero essere me e non nessuna e non altro da me. Mentre noi tendenzialmente preferiamo, no, guardare la vita di qualcun altro e facciamo fatica a imparare a stare in contatto con noi stessi. Certo, fino a un certo punto, dice Guardini, è cosa innocente cercare, no, delle forme, no, di alleggerimento nei confronti del compito che mi viene assegnato, cioè me stesso. Ma dopo subentra, no, il rischio di una fuga da sé. E guardate che la forma tipica della nostra contemporaneità è l'attivismo frenetico. L'attivismo frenetico è profondamente una fuga molto pericolosa da se stessi. Mi occupo di talmente tante cose che non ho tempo per me, per stare in contatto con me. Faccio anche tante cose nobili, no? Ma non ho tempo per stare in contatto con me, perché quello mi richiede quell'impegno a cui il Vangelo mi richiama. Sempre Guardini, è interessante, arriva ad affermare: Ma il dono più grande che Dio ha fatto ogni uomo, ogni donna, è l'essere te stesso. Questo è il dono più grande che Dio ti ha fatto, cioè la tua singolarità, la tua unicità, la tua individualità, che non vuol dire individualismo, eh? L'individualismo, l'egoismo è la chiusura in se stessi, ma riconoscere la propria individualità fatta di qualità e di limiti vuol dire riconoscere me stessa, e che si esprime tutto questo me stesso nel mio nome, che non mi sono scelto io, di nuovo non me lo sono scelto io il nome, e mi richiamo ogni volta il mio nome, che mi piaccia o non mi piaccia, ad accettare quella dinamica per cui qualcosa mi è affidato quando io non l'ho deciso. Ritorniamo al discorso precedente. Ed è interessante perché l'escatologia, la scienza che studia le cose ultime, dice così, dice: ma quale sarà la grande domanda che Dio ti porrà? L'escatologia dice: ma forse la grande domanda è: ma sei stato te stesso? Perché io questo ti ho assegnato, non ti ho chiesto di essere altro da te. E la domanda è provocatoria, voi capite, profondamente provocatoria, ma anche interpellante, ci chiama a una riflessione, ci chiama a una riflessione. Davvero, no, ho il dovere di voler essere me stesso? Davvero c'è un dovere che mi chiama in causa nell'essere e nel voler essere me stesso? Allora, per cercare, no, di rispondere a questa domanda, chi sono io, che è la domanda che mi interpella, voi capite che è necessario, no, avere il coraggio, e ci vuole coraggio, nel intraprendere un percorso di conoscenza di sé. Il termine coraggio deriva dal latino cor cordis, che si rimanda alla dinamica del cuore, no? È molto bello il termine coraggio. Il coraggio non è una scelta solo della mente. Ho il coraggio. No, no, il coraggio vuol dire che chiama in causa tutto te stesso. Nella visione semitica, mente, corpo, anima. Tutto me stesso. E ci vuole coraggio ad intraprendere, a iniziare un percorso di conoscenza di sé. Questo percorso di conoscenza di sé ha due pilastri fondamentali. La conoscenza di sé e l'accettazione di sé. La conoscenza di sé, non in termini solo intellettualistici, io qua potrei spendere tantissime parole, ma devo un attimino correre, perché poi vorrei offrirvi la possibilità di fare un'esperienza concreta, per cui appunto vedere come tutto questo discorso non è semplicemente una bella teoria, no? Ma poi è la possibilità invece di fare esperienza di quello che si dice. La conoscenza di sé non in termini intellettualistici, sono fatto così, ho queste qualità, non solo quello. Conoscenza di sé vuol dire fare esperienza di se stessi, cioè conoscersi a tal punto che io so benissimo che cosa mi scatta quando mi ritrovo in certe situazioni con certe persone. Cioè io mi conosco, so quali sono le mie dinamiche. Ecco, la conoscenza di sé non è solo mentale, no? È una conoscenza che vuol dire: ho fatto esperienza di me, so quali sono alcune dinamiche di paura, di appunto, possiamo dire, di timore, no? Che mi scattano in determinate situazioni. E poi c'è l'accettazione di sé. L'accettazione di sé non è rassegnazione, e vabbè, sono fatto così, no? L'accettazione è profondamente, no, il principio che mi tiene ancorato alla mia realtà. Accettare non significa rassegnarsi, no? Accettare significa migliorarsi lungo la linea di quello che mi viene assegnato, sapendo accogliere ed accettare naturalmente anche i miei limiti. La conoscenza di sé e l'accettazione di sé sono i due pilastri per poter iniziare un percorso di conoscenza di sé. Percorso che non avrà mai fine, perché noi siamo sempre in evoluzione. E io non sono sempre la stessa persona, non sono la persona di 6 mesi fa. E tra 6 mesi sarò una persona ancora in cambiamento e in evoluzione. I due pilastri sono in stretto rapporto tra di loro. Più mi conosco, più mi accetto. E più mi accetto, più mi conosco. Questa relazione tra questi due passaggi fondamentali crea un'unità, e questa unità si esprime nella forma della benevolenza, cioè dell'amore, perché c'è conoscenza di me solo nella dimensione dell'accoglienza, dove c'è un giudizio, dove c'è una barriera difensiva, dove c'è violenza, dove c'è una conoscenza fredda e distaccata. Io non faccio esperienza di me. Noi abbiamo il coraggio di guardarci dentro nel momento in cui siamo accolti benevolmente. È la dinamica, no? Che Gesù attua nelle sue relazioni: accoglie senza giudizio. In questo gioco tra la conoscenza di sé e l'accettazione di sé entra ancora di più, possiamo dire, in risalto il tema della benevolenza. Ma come faccio io ad attuare quella benevolenza verso me stesso, quindi in quella dinamica di conoscenza e accettazione? E ritorniamo a, vi ricordate quando vi ho detto che cos'è la benevolenza? Quella benevolenza è l'esperienza d'amore che io ho fatto nell'incontro personale con Dio. E Guardini qua arriva a dire una cosa bellissima. Dice: ma l'amore ha inizio in Dio, nel fatto che Egli mi ama e che io divengo capace di amarlo e che gli sono grato per il suo primo grande dono, ossia me stesso. Guardini indica appunto in questa benevolenza, la prima forma in cui io faccio esperienza di questa benevolenza è proprio l'atteggiamento di Dio verso me stesso, è Dio stesso. Allora io sono in grado di guardare me stesso utilizzando quella dinamica di benevolenza per poterla poi attuare nei confronti degli altri. Vi ricordate il comandamento, no? Ama Dio con tutto te stesso, il prossimo tuo come te stesso. Di nuovo il comandamento dell'amore. Ma se non sono in grado di amare me stesso, non potrò mai amare l'altro. Il comandamento è chiarissimo, siamo noi che l'abbiamo un pochino deviato, eh? Ama l'altro come te stesso, né più di te stesso né meno di te stesso, come te stesso. E che vuol dire? Che prima devo essere in contatto con me per poter amare autenticamente l'altro e accogliere l'altro nelle sue dinamiche, no? Anche di maturità o di egoismo. Ultimo passaggio che vorrei fare con voi, poi vorrei appunto dare spazio al lavoro di gruppo. Allora capiamo, alla luce di questa digressione, ritornando invece un attimo al nostro tema, che è appunto lo stile personale, no? E comunitario, a cui in qualche modo appunto veniamo chiamati in causa, che questo stile personale mi chiede di mettermi in gioco. Mi chiede di mettermi in gioco. Che il Vangelo ti chiede di essere protagonista della tua vita, perché ti chiede di metterti in gioco, nel senso di non essere spettatore di quello che vivi, ma di scegliere. E allora noi capiamo che la dimensione personale diventa performativa, no? Nei confronti degli altri, nel momento in cui io sono consapevole di quello che sto scegliendo e del mio modo di agire e del mio stile che io adotto nelle mie relazioni vicine, in famiglia, nelle mie relazioni con la mia comunità e con gli altri che non conosco. Lì si gioca la mia scelta. Pertanto siamo chiamati a vivere secondo lo Spirito. Vi ricordate all'inizio che Francesco diceva: siete chiamati alla trasfigurazione. Siamo chiamati a vivere secondo lo Spirito, significa che allora io sono chiamato a generare frutti, a generare quella fecondità, no? Accennata prima. E generare i frutti vuol dire arrivare ad azioni concrete, che il frutto è qualcosa di concreto. Ed è molto interessante che la lettera ai Galati lo indica benissimo. Paolo qua, in una sua riflessione spirituale veramente di grandissimo livello, arriva a esprimere qual è il frutto dello spirito, cosa vuol dire vivere secondo lo spirito. Certo, vivere secondo lo spirito vuol dire vivere nell'amore e generare amore, ma Paolo poi declina questo amore, bellissimo. Il frutto dello spirito invece, dice Paolo, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Interessante che troviamo la gioia all'interno di questi frutti. Poi vedremo appunto una breve esperienza proprio su questo tema, no? Visto che stiamo parlando del Vangelo, no? Della gioia, in quanto tale cosa significa vivere la gioia per il cristiano. Quindi solo nel momento in cui io scelgo veramente, quindi mi prendo seriamente e scelgo, no, di essere protagonista della mia vita e pertanto protagonista della mia fede in relazione al Vangelo, che posso veramente trasfigurare la mia vita secondo lo Spirito e generare frutti secondo lo Spirito. Ma questo richiede una pratica. Cioè già Tertulliano diceva che non si nasce cristiani, lo si diventa. E non è perché io entro in chiesa, ricevo la benedizione e automaticamente sono a posto. Cioè vuol dire che mi viene chiesto un impegno di vita, un impegno di pratica. Sì, tutto richiede impegno, se vuoi che le cose migliorino. Anche la fede richiede un impegno, anche la fede. Noi invece questa cosa a volte la dimentichiamo, vabbè, perché è la fede, quindi dovrebbe arrivare in automatico. Ma ci viene chiesto dunque un allenamento. È un allenamento stare e vivere secondo lo spirito, come ci invita Francesco. Siamo chiamati dunque veramente a scegliere di stare e di vivere secondo lo spirito, perché questa dimensione, no? Questa dimensione personale è quella che ci offre la chiave poi per generare una dimensione comunitaria autentica. Vado verso la fine, concludo questa prima parte e poi così entriamo nel lavoro di gruppo. Allora la fede mi chiede dunque di scegliere, di decidermi per me, in questo momento, adesso, ora. E la fede mi continua a interpellare ogni momento. E io posso scegliere per me nel mio presente. Non è una scelta che ho fatto una volta e basta. La fede mi interpella sempre, mi interpella a scegliere e dunque mi interpella a essere consapevole di me e di quello che sto creando e generando. È bellissimo perché la fede ci ricorda che l'unica dimensione che noi possiamo, di cui possiamo veramente occuparci, è la dimensione del presente. Perché il passato ormai è passato e il futuro non è a nostra disposizione. Diceva Agostino, in realtà il passato e il futuro non esistono, esiste solo il presente, l'unico tempo che la coscienza conosce. E noi, guardate che invece ce lo dimentichiamo. Invece siamo richiamati con una forza veramente vitale a occuparci del nostro presente, di quello che io posso generare qui e ora. E concludo. Dunque la dimensione, no, personale offre la possibilità dunque di creare quella che poi diventa una dimensione comunitaria autentica. Ma le due non sono giustapposte, la dimensione personale da una parte e la dimensione comunitaria dall'altra. Le due sono in una fortissima sinergia. Quasi non c'è distinzione. Perché non c'è distinzione? Perché a un certo punto la dimensione personale, che si fonde nella dimensione comunitaria, non è semplicemente la perdita della singolarità. La singolarità resta. Ed è questo è, di nuovo, il dono di Dio, la tua singolarità. Ma questa singolarità si dilata per diventare veramente strumento di bene. Vi ringrazio. E con questi due interventi, quelli di Assunta Steccanella, docente di teologia pastorale, Barbara Marchica, dottoranda in teologia e counselor pastorale, abbiamo concluso l'ascolto delle quattro serate dedicate all'approfondimento sull'esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Le quattro serate che si sono svolte in un primo ciclo ad ottobre per la zona sud della diocesi al centro parrocchiale di Carceri d'Este e per la zona nord a novembre a Fellette di Romano De Zelino. Tutto il materiale audio delle quattro serate e anche il resto delle nostre proposte serali del lunedì e il martedì sono disponibili nella sezione podcast del nostro sito bluradioveneto.it. La settimana prossima, lunedì 20 e martedì 21, invece vi proporremo due interessanti interventi coordinati dal nostro direttore Guglielmo Frezza. Il primo con Luigino Bruni, professore universitario che recentemente è intervenuto a Padova per parlare di economia solidale a partire dal suo ultimo libro, e poi il primo degli incontri di Città dell'Ascolta promosso dal coordinamento vicariale delle parrocchie cittadellesi, l'incontro che si è svolto qualche settimana fa con la regista Pupi Avati. L'appuntamento con queste due voci lunedì 20 e martedì 21. Per il momento vi auguriamo buona serata sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Grazie a Didaici in regia, a voi per l'ascolto. Da Mirko Cavallin, buona serata.